dopo i blitz della finanza è in crisi anche la Milano da bere. Ma c'è poco da scherzare. Qui c'è gente che non si può più permettere neanche un Porsche Cayenne. Che colpa abbiamo noi?